Lisa. Swasti wanti, swasti wanti, swasti wanti wasa. Morgi santi rekau ripa. Morgi dirga yusa. Swasti wanti, swasti wanti warsa. Swasti wanti, swasti wanti, swasti wanti warsa. Agen sane pajang ke bangde. Sukalan duka. Subah kering ide yang Swasti wanti, swasti wanti, swasti wanti warsa. Swasti wanti, swasti wanti, swasti wanti warsa. Swasti wanti, swasti wanti, swasti